Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio. Questa mattina partiamo male con il microfono che non si accende. Allora, buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati al nostro e vostro soprattutto contenitore dedicato alle problematiche finanziarie di tutti noi. Allora, si sta intensificando sempre di più il dibattito sul tema dell'educazione finanziaria e speriamo che tutto questo gran parlare ci porti presto a qualche risultato concreto nel rapporto, nel dialogo fra risparmiatori e l'industria dei prodotti finanziari di investimento. Il tema, lo sapete perché ne abbiamo parlato tantissimo anche a Salva Danaio, è al centro del Salone del Risparmio iniziato ieri a Milano, promosso da Sogestioni, l'associazione delle società di gestione del risparmio, e tutte le società che partecipano in questi giorni stanno presentando le proprie strategie, le nuove filosofie di approccio verso la clientela oltre che verso il mercato, che continua ad essere piuttosto turbolento. Nuovi approcci che tengano conto degli errori commessi in passato, della scarsa preparazione che molti di noi hanno sugli strumenti di risparmio, e naturalmente un altro grande tema è anche quello della crisi, come vi dicevo, perché, come ha avuto modo di affermare il nuovo presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco, capire la finanza in tempi di crisi è un compito complesso per tutti, è proprio difficile. E allora, cosa ne pensate di tutto questo? Che rapporto vorreste con la vostra banca quando parlate del vostro risparmio? Quale vorreste che fosse un rapporto che potete definire ideale per voi? Puntate solo nell'approccio con il vostro intermediario a mantenere o possibilmente far rendere il vostro portafoglio? Vi interessa una maggiore personalizzazione del servizio di consulenza? Ci sono tanti aspetti da affrontare, poi mi interesserebbe anche capire di nuovo il tema della vostra educazione finanziaria. E ancora, io so che vi ho fatto tante volte questa domanda, ma a quanto pare questo dibattito ancora non è arrivato ad un punto di svolta, quindi vorrei ancora di nuovo interrogarvi sulle modalità con cui vi documentate dal punto di vista finanziario e soprattutto come cercate anche di definirvi in qualità di investitori e risparmiatori. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà la possibilità di interagire con noi, ma soprattutto con gli ospiti di Salva Danaio di questa mattina. Due delle tante società che peraltro prendono parte alla vetrina di Assogestioni in questi giorni. Allora, buongiorno e bentornato, da un bel po' che non lo sentiamo a Salva Danaio, il dottor Stefano Calderano, responsabile della divisione retail e private di BNL Gruppo BNP Paribas. Dottor Calderano, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Uno dei più grandi gruppi bancari del nostro paese, che è partito peraltro recentissimamente con una grande campagna di comunicazione, e hanno attivato anche un servizio internet dedicato ai risparmiatori, futuroconsapevole.it. Ci sono tante iniziative in corso di cui vi racconteremo questa mattina, e poi l'esperienza di un grande attore internazionale, Andrea Viganò, responsabile BlackRock per l'Italia. BlackRock è una delle principali società di risparmio gestito a livello mondiale. Dottor Viganò, quindi da lei ci aspettiamo questa mattina anche una riflessione sulla base della sua esperienza proprio internazionale. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, io ho ricordato il numero verde per gli ascoltatori per intervenire questa mattina, ma naturalmente per i timidi c'è anche la possibilità di interagire alle 349-238-6666, quindi di inviarci dei messaggi. Diamo un'occhiata alla borsa questa mattina, mercato davvero indeciso questa settimana, giornate spumeggianti in termini positivi, oggi invece si riscende di nuovo, meno un punto per Parigi, Francoforte meno 0,8, Londra meno 0,8, Milano meno 1,24. In realtà la giornata era partita molto meglio, con rialzi di oltre mezzo punto, ieri ribassi, quindi oggi la borsa europea tentava il rimbalzo, che è fallito. Perché? Perché a metà mattinata è arrivata Eurostat, l'istituto di statistica europeo, che ha fatto sapere di aver rivisto al rialzo il rapporto deficit-PIL della Grecia dal 12,9% al 13,6%, e questa notizia si è abbattuta sull'euro subito. L'euro è scivolato a 1,3335 sul dollaro, questa è la quotazione peraltro in questo momento. Le borse sono scese di nuovo tutte quante prepotentemente. E poi naturalmente c'è stato l'immediato riflesso anche sui tassi dei bond greci a 10 anni, che sono tornati a salire all'8,32% contro l'8 di ieri, già nuovo record, anche ieri era stato toccato. E insomma, abbiamo una situazione di forte tensione sul mercato obbligazionario in questi giorni, che stiamo continuando a monitorare, ma fino a quando non ci sarà una minima schiarita sul fronte greco, credo che questa tensione continuerà. Rapidamente, i migliori titoli di Piazza Affari oggi: corre il lusso, Bulgari più più 2, Luxottica più 0,52, Galassia Fiat. Nella mattinata in cui il ministro Scajola, lo avete sentito, incontra l'amministratore delegato Sergio Marchionne, appunto del Lingotto, il presidente, il nuovo presidente John Elkann, i titoli hanno un andamento contrastato perché erano partiti tutti e due bene, Fiat ed Exor. Adesso mantiene il rialzo solo Exor più 1,58, mentre Fiat sta perdendo terreno meno 1,32%. Il peggiore però è Prysmian meno 2,83, Popolare di Milano meno 2,48, meno 2% per Atlantia, STM per il Banco Popolare. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina e ritorniamo sulla nostra educazione finanziaria. Far quadrare i conti, soprattutto in tempo di crisi, è tutt'altro che semplice. I capitoli di spesa che gravano sul bilancio familiare sono molti. Ecco perché prima di mettere mano al portafogli è sempre bene valutare qual è la migliore soluzione per le nostre tasche. Tenere di fatto sotto controllo le spese, confrontare i servizi e i prodotti più vantaggiosi per le nostre abitudini. E lo stesso meccanismo vale anche per gli investimenti finanziari. Pianificare una strategia di azione è utile per non incappare in sorprese sgradite. È in base agli obiettivi che ciascuno si prefigge che bisogna decidere come investire, non viceversa. Le variabili da considerare sono numerose, così come le opportunità e gli strumenti disponibili. In ogni caso, prima di compiere delle scelte, è bene prestare attenzione alla propria propensione al rischio, così come alle esigenze presenti e future della famiglia. Una volta individuato l'investimento idoneo, è necessario però controllarlo periodicamente. Il check-up del proprio portafogli consente infatti di avere un quadro chiaro delle proprie finanze e in alcuni casi di evitare sorprese amare. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire questa mattina e ritornare un po' ad affrontare il tema della nostra educazione finanziaria. Che passi avanti abbiamo fatto magari sulla scia di qualche errore commesso nel passato e come intendiamo approcciarci? Mi rendo conto che tra l'altro questo momento è ancora difficile per molte famiglie che magari hanno anche un componente che ha perso il lavoro e sicuramente adesso il tema del risparmio, per quanto potrebbe essere teoricamente cruciale, magari non è la prima priorità della famiglia. Ci sono emergenze diverse, fino a quando effettivamente forse non verremo fuori dalle secche della crisi, per molte famiglie sarà abbastanza difficile rimettersi con serenità a pianificare così un progetto di risparmio familiare. E però insomma non dobbiamo in ogni caso perdere di vista questo filone. Allora cominciamo un po' a sentire l'industria, come si sta ripensando in questa fase. Dottor Calderano, abbiamo rinvitato BNL e BNP Paribas da noi anche perché ci aveva un po' incuriosito questa massiccia campagna pubblicitaria che è in corso su tutti i media da metà marzo, se non sbaglio, e che spiega il nuovo approccio verso la clientela. Mi pare che di aver capito che si tenti di spingere verso un approccio sempre più personalizzato, non più standardizzato. E però la domanda che mi è sorta è: che cosa cambia? Nel senso che nel migliore dei mondi possibile un rapporto con una banca avrebbe dovuto essere sempre questo, molto personalizzato, non standardizzato. Quindi che tipo di presidio avete rafforzato nell'approccio appunto con i vostri clienti? Ma sicuramente quello che nella nostra filosofia, nel nostro approccio, è la cosa più importante è rendere il cliente consapevole di quello che sta comprando. E questo penso, come dire, la grande anche differenza rispetto a qualche anno fa di quello che è successo forse anche nell'industria del risparmio in Italia. È un tema, come si diceva anche nella scheda, assolutamente fondamentale, perché in Italia comunque l'educazione finanziaria è abbastanza limitata, ci sono tantissime ricerche che lo dimostrano, anche ricerche fatte dall'ABI, da Patti Chiari, dimostrano che la competenza finanziaria, anche perché questi sono temi che ahimè nella scuola italiana, contrariamente ad altri paesi, non vengono studiati. Quindi dal nostro punto di vista cerchiamo da un lato di aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei clienti. Ad esempio abbiamo organizzato ormai da circa un anno le nostre agenzie un'iniziativa che si chiama EduCare, che sono dei seminari che si svolgono nel pomeriggio e che sono totalmente gratuiti, ovviamente aperti a chiunque, clienti e non clienti, nei quali appunto cerchiamo, senza parlare assolutamente dei prodotti della banca, ma cerchiamo proprio di far capire ai nostri clienti quelli che sono gli aspetti importanti e soprattutto le conseguenze finanziarie della vita di tutti i giorni. Certo, sono molto frequentati, dottor Calderano, questi incontri? Sì. Sono molto frequentati, sono molto graditi ovviamente dai clienti, sono molto graditi anche per la verità dai nostri colleghi che li tengono, perché penso che anche per loro è una, una, un, un modo diverso ovviamente di presentarsi. Certo, che feedback avete riscontrato anche nei termini delle domande che la clientela si fa relativamente alla gestione del proprio risparmio? Ma la cosa importante è che appunto il cliente tipicamente entra, diciamo, in banca o fa la domanda di che cosa devo fare io con i miei soldi. La cosa che noi cerchiamo di far capire ai nostri clienti e ovviamente attraverso i nostri consulenti in agenzia è che non esiste la risposta a questa domanda, ovvero non esiste la risposta che vale per tutti. Noi, diciamo, anche nella campagna pubblicitaria abbiamo, come dire, buttato lì uno slogan che è il dipende, che è la risposta che si dovrebbe dare, per cui, come dire, io diffiderei chiunque diciamo in una fase di consulenza che riceva alla domanda cosa posso fare con X mila euro una risposta specifica di un prodotto, perché la scheda tra l'altro lo diceva benissimo, la consulenza si compone di fare le giuste domande e la cosa importante è che il cliente ovviamente dia anche le giuste risposte, nel senso giusto, nel senso con la massima... Certo, risposte relativamente a se stessi, perché qualche volta, io poi questo è un tema che vorrò sviluppare magari nella seconda parte della trasmissione con voi, il tema è che qualche volta continuiamo a mantenere, forse anche per scarsa fiducia, tema cruciale, un grande pudore nei confronti dell'interlocutore bancario, tendiamo a non spiegare molto bene le esigenze che abbiamo e quella potrebbe essere tra l'altro una carta vincente anche nello sviluppo del rapporto, perché e poi se siamo insoddisfatti di come la banca gestisce il nostro denaro e il nostro risparmio, facendo leva su quello possiamo rivendicare comunque un trattamento sicuramente migliore. Ci ritorniamo, dottor Calderano, su questi punti. Volevo però coinvolgere anche Andrea Viganò, responsabile BlackRock per l'Italia. Vi dicevo, è una delle principali società di risparmio gestito a livello mondiale, quindi dottor Viganò, voi non siete una banca, come si dice in gergo, in inglese, retail, e però il suo punto di osservazione è molto interessante, perché lei è stato all'estero anche per tanti anni. Le chiedo come vede questo dibattito sull'educazione finanziaria nel nostro paese, su questa concezione degli italiani come un po' arretrati, se non a volte addirittura quasi disinteressati al tema finanziario. Qual è la misura giusta, se esiste, che si dovrebbe avere di conoscenza finanziaria? Da dove dovrebbe partire il nostro paese per una svolta in questo ambito? Ma come lei dice, è un tema assolutamente affascinante e molto molto importante, perché da una appropriata educazione finanziaria possono emergere risultati positivi, importanti per i padri di famiglia, le madri di famiglia, i risparmiatori, per raggiungere più facilmente e con più serenità i loro obiettivi finanziari. L'esperienza effettivamente, come lei dice, noi siamo un gestore globale, abbiamo clienti in più di 100 paesi, ovviamente tanti partner anche in Italia, i nostri prodotti sono collocati attraverso reti bancarie, attraverso promotori finanziari, attraverso banche private, e il punto di osservazione che io faccio è, prima di tutto in Italia secondo me le cose poi non sono così nere come si può tendere a dipingerle. Gli italiani sono prima di tutto, hanno capito la prima fase fondamentale dell'educazione finanziaria, che è risparmiare. Siamo un popolo di grandi risparmiatori storicamente e abbiamo continuato ad esserlo anche quando altri paesi invece prendevano più l'abitudine a indebitarsi e a utilizzare tanti strumenti di indebitamento. Quindi questa fase è molto molto importante ed è un pilastro fondamentale della nostra economia e dei bilanci delle nostre famiglie. La verità, ecco, dove comparandolo con altre esperienze internazionali, è che poi quando si tratta poi di investire, di impiegare questo risparmio, che ovviamente è stato fonte di tanta fatica, di tanti sacrifici, ecco, allora l'approccio al denaro diventa emotivo, si fa forse far premio al cuore piuttosto che alla testa. A volte c'è una delega totale. E magari maturata, non dico per amicizia, però magari per un rapporto che nasce proprio così, e siamo, come dire, forse un po' troppo passivi anche nella relazione con l'interlocutore finanziario, o no, dottor Viganò? Ancora una volta penso che anche in questo caso la risposta corretta è dipende. Ognuno si approccia al proprio denaro in un modo molto variabile. Io ho la fortuna e l'onore di accompagnare alcuni dei nostri distributori negli incontri anche con i risparmiatori, e da situazioni come descrive anche lei molto passive ce ne sono altre di veramente focose, se posso dire, dove proprio l'emotività, talvolta in me però comprensibile perché si è faticato tanto a risparmiare, ma anche pericolosa, che prende la guida delle scelte di investimento. La paura di perdere, da una parte, comprensibilissima, ma talvolta anche la voglia di imitare la persona conosciuta, chi ha fatto i soldi, chi magari è riuscito con un po' di fortuna a cavalcare un periodo particolarmente favorevole di borsa, con il rischio poi di entrare, l'ho visto succedere a tante famiglie, nel momento poi sbagliato, quando già i guadagni si erano maturati e si preparavano magari dei momenti di di correzione. L'erba del vicino è sempre la più verde, insomma, questo proverbio ci insegna qualcosa. La interrompo, dottor Viganò, riprendiamo tutti questi concetti molto interessanti nella seconda parte di Salva Danaio, perché ci sono poi anche altri punti da sviluppare molto belli, perché sì, lei dice il nostro è un paese di grandi risparmiatori, ce lo diciamo sempre, questo aspetto ci ha probabilmente salvato anche da derive più pericolose della crisi in atto, e però in molti suoi colleghi mi dicono attenzione, la nostra scarsa educazione finanziaria è dovuta anche al fatto che questa ricchezza si cema e concentrata in pochi soggetti, per cui rimane, come dire, una fetta di popolazione che è lontana da tutto, anche come dire, dalla banca presso la quale si reca solo per il minimo rapporto indispensabile, e di conseguenza non avrà mai magari accesso ad un miglioramento della propria educazione. Ma insomma, anche questo un tema bello. Eccoci di nuovo insieme a Salva Danaio, che ritorna su un tema che è un grande cavallo di battaglia, quello dell'educazione finanziaria, per capire a che punto siete della vostra preparazione e soprattutto a che punto è anche questa fase di riflessione che l'industria della distribuzione, del confezionamento e del collocamento dei prodotti di risparmio, a che punto è questa riflessione. Un punto della situazione viene fatto in questi giorni al Salone del Risparmio in corso qui a Milano, promosso da Assogestioni. Stamattina con noi Stefano Calderano, responsabile della divisione retail e private di BNL, gruppo BNP Paribas, e Andrea Viganò, responsabile BlackRock per l'Italia. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, sono pronta a cogliere le vostre sollecitazioni, cominciando con quella di Antonello dalla provincia di Ancona. Antonello, benvenuto. Buongiorno Deborah, innanzitutto devo salutare una marchigiana di Castelfidardo. Non sveli altro. La cosa è molto lunga Deborah e ci vorrebbe non so quanto. In tutti i modi siamo ancora molto indietro sul fatto di capire a fondo la faccenda della finanziaria, specialmente per persone che non sono del ramo. Se pensiamo quanta gente va a prendere la pensione prendendo i soldi alle poste e non ha il conto corrente, possiamo immaginare la difficoltà. Io proprio l'altro giorno ho la fortuna di avere un figlio che si è diplomato in Bocconi, allora qualche volta lo chiedo a lui, ma l'altro giorno ho fatto proprio una gestione patrimoniale in SICAV, tra le 20 proposte ne ho scelte 4, ma se dovessi mettermi a leggere il contratto di gestione patrimoniale, giustamente, ci vorrebbe un avvocato, ma oltre anche un esperto in finanziaria. Quindi mi sono un po' fidato della banca dove lavoro da anni, li metto un po' alla prova. Ogni mese vado a stuzzicarli per vedere a che punto sono, controllare bene la faccenda, ma io mi immagino le difficoltà che ci sono, diciamo, come facevo un esempio, tra persone che non hanno le possibilità di Certo, perché facciamo tanti lavori diversi, Antonello, ma io stessa non possiamo essere ovvio, ma giustamente, no? Perché io faccio la giornalista, non faccio mica la panettiera, quindi non posso conoscere tutti gli ingredienti che si utilizzano e i segreti per cucinare il pane, piuttosto che non faccio il meccanico e non conosco come si fa ad aggiustare un'auto se questa si rompe, Antonello, perché ognuno ha il suo mestiere, ha perfettamente ragione. E ecco, l'unica cosa che possiamo fare è andare in banca con una grande chiarezza di idee su quello che almeno vogliamo e che cosa vogliamo fare del nostro denaro. Dottor Calderano, BNL BNP Paribas, ha sentito l'osservazione assolutamente pertinente di Antonello. Voi avete portato avanti, state portando avanti questa campagna Parlane con noi, partendo dall'esempio che ho fatto poco fa, quello del meccanico, perché lo faccio sempre, no? È giusto da tutti pretendere che conoscano esattamente la differenza tra un bot e un'azione o addirittura un'obbligazione strutturata, e non è invece il caso aspettarsi qualcosa di più dal consulente finanziario al quale ci rivolgiamo? Questo non ha più dovere di noi di impegnarsi ad approfondire le esigenze, appunto, la conoscenza della tematica finanziaria in modo che ce la possa spiegare bene, prima cosa, e poi darci il prodotto giusto per noi, non approfittando della nostra scarsa conoscenza, pur partendo dal presupposto che qualche passetto in più tutti quanti dobbiamo farlo. Assolutamente sì, io penso che non c'è assolutamente bisogno per avere investire nel modo migliore di conoscere tutti questi tipi di dettagli. La cosa importante è che il cliente abbia chiaro quello, come si diceva anche nella scheda all'inizio, quali sono i suoi obiettivi di investimento, ma la diciamo anche ancora più semplice, perché obiettivi di investimento è già una parola difficile. Che cosa deve fare lui nella vita? Perché poi in base a quello che lui deve fare nella vita, da questo nascono i suoi obiettivi di investimento, ovvero sia deve comprare una casa, deve dei figli da far crescere, deve fare un investimento nella sua azienda, nel caso del meccanico di cui lei diceva prima. E quindi il nostro compito come industria è quello di rendere domande facili, che possono essere appunto quali sono i tuoi futuri impegni di vita, che questa è una domanda a cui chiunque sicuramente sa rispondere, anche se non ha una cultura e un'educazione finanziaria, E anche un altro elemento che ormai è notorio a tutti quanti, cioè qual è il profilo di rischio, cioè quali rischi il cliente è disposto a prendersi. L'ascoltatore, tra l'altro, sottolineava un altro tema secondo me molto importante, che è quello della trasparenza, nel senso che la normativa interpreta la trasparenza spesso con una quantità di informazione sicuramente innanzitutto quantitativamente alta, e questo è un problema, e poi è invece un problema dell'industria, forse sicuramente spesso non facilmente comprensibile. Questo però purtroppo, ci sono anche tanti vincoli della normativa, perché come dire, la trasparenza a volte si interpreta più dal punto di vista formale che non dal punto di vista sostanziale. Basti vedere quello che è successo con l'introduzione della MiFID, di questa direttiva europea che ha imposto alle banche di standardizzare in qualche maniera anche le modalità di recepimento delle informazioni da parte della clientela. In realtà si è tradotta questa operazione, sulla quale non torniamo perché è molto complicato anche spiegarla, in una montagna di carta da produrre per la banca e da compilare per il cliente, con l'unico risultato secondo me di inficiare ulteriormente il rapporto, se vogliamo, perché le persone effettivamente non capiscono bene a cosa serva tutto questo test. Per le banche, sulla produzione eccessiva di carta, che effettivamente, forse, non so, dottor Calderano, ha portato a qualche risultato? Ma io penso di sì, sinceramente. Penso che comunque la MiFID nell'interpretazione italiana, tra l'altro, che comunque è un'interpretazione abbastanza tipica del nostro paese, e più rigida per la verità, visto ovviamente anche quello che è successo in passato di altri paesi, sia stata comunque un fattore positivo nel complesso. È vero che ci sono tanta carta, è vero che qualcuno la interpreta e la può interpretare sicuramente anche come un po' di burocrazia, ma secondo me la MiFID però impone appunto di avere un certo processo, di fare certe domande. Se queste domande sono poste nel modo giusto, quindi appunto per cercare veramente di capire quello che il cliente vuole, e ripeto anche dal cliente nel cercare di dare le informazioni importanti, e questo penso migliorerà, e secondo me ha già migliorato nel tempo il rapporto in tema di investimenti tra la banca e i clienti. È chiaro che non in tutti i casi questo avviene, ma io penso che tutto sommato la MiFID ha avuto un buon impatto, direi, sostanzialmente. Però ecco, non vorrei tornare su quella, in realtà troppo a lungo, perché poi è anche ricomplicato da spiegarlo. C'è un'ascoltatrice che ci scrive, anche questa è un'osservazione molto interessante, al 349-238-6666. Mi colpisce l'idea di dire che tipo di risparmiatore sono. Irena si chiama questa ascoltatrice. Forse mi definirei un erede di risparmi. I nostri risparmi li hanno fatti i nostri genitori negli anni 70 e un po' noi forse all'inizio degli anni 90. Poi abbiamo comprato casa e dopo il mutuo, con uno stipendio e mezzo da impiegati statali e tre figli, non si risparmia più niente. Dottor Viganò, che cosa ne pensa? Sicuramente siamo figli di una generazione che aveva, come dire, le caratteristiche per poter risparmiare un po' di più. Oggi abbiamo redditi troppo corti, coperte troppo corte per poterle destinare al meglio in tutte le nostre esigenze, e non è sciocca, è tutt'altro che sciocca, insomma, l'osservazione della nostra ascoltatrice. È molto appropriata, senz'altro quello è la stessa domanda che si pongono tanti nostri ascoltatori e tanti, ripeto, padri e madri di famiglia. Vorrei però tornare, quando parliamo di educazione finanziaria, proprio il tema che diceva lei, la conoscenza tecnica degli strumenti non è necessariamente qualcosa di cui tutti devono diventare degli esperti, e farsi affiancare da un consulente e affidarsi a una società di gestione, a dei professionisti seri, può aiutare nella scelta degli strumenti. Cioè, secondo me è un pochino proprio sul rapporto fiduciario che dobbiamo ricostruire tutto. Senz'altro sì, l'aspetto della fiducia è per tutti coloro che fanno il nostro mestiere è un aspetto fondamentale per il successo delle nostre aziende, dei nostri istituti, e penso che ci siano molti operatori che stanno lavorando seriamente in questa direzione. Il tema che per me è interessante è quello di dire, ecco il risparmiatore che dice faccio fatica a definirmi. Ecco, il coraggio, e io penso che sia veramente il passo fondamentale verso l'educazione finanziaria, è quello di iniziare a dare una forma, accompagnati magari da qualcuno che ci può assistere, una forma, un nome, un cognome e dei numeri ai nostri obiettivi finanziari. Questa è la cosa che si fa fatica a fare. L'italiano in media ha imparato sì a risparmiare, però la logica era di mettere i soldi da parte per una qualche evenienza a cui non si sapeva dare né un nome né una forma. Io nell'esperienza che devo dire è stata la mia, anche viaggiando e vivendo all'estero, per esempio negli Stati Uniti, devo dire che sono estremamente riconoscente a quel consulente finanziario che negli Stati Uniti mi aiutò a mettere le fondamenta della pianificazione finanziaria, che oggi è quella anche della mia famiglia. dando proprio un nome e una forma a questi obiettivi. Se io conto di mandare i miei figli un giorno, se lo vorranno, all'università e magari con qualche possibilità di studi all'estero, ecco che ci saranno una parte di denaro che è necessario mettere da parte per quell'evenienza. Perché è stato uno dei primi temi che si è posto non appena sono nati. Qua per esempio noi non abbiamo questo approccio, dottor Viganò? Per le generazioni future? Allora, diciamo, in America ovviamente, senza parlarne troppo, però è ovvio che essendo un sistema, almeno prima di Obama, talmente privatistico, che uno deve prevedere che se gli nasce un figlio spenderà circa $200,000 per mandarlo a scuola. Per la sua educazione. Se succede qualcosa di medico, per le grandi operazioni mediche, deve mettere da parte perché... Per pagarsi la polizza, politico. L'assicurazione, se no se non... Se perde il lavoro, deve avere un conticino con un po' di soldini perché non c'è un'assistenza per chi è senza lavoro, eccetera, eccetera. Quindi essendo molto privatistico, naturalmente... Grande differenza è là, certo, ti porta a fare delle scelte radicalmente diverse, ad impostare ovviamente una vita in maniera radicalmente diversa rispetto a quello che sarebbe possibile fare qui da noi. Ecco, da noi chiaramente c'è un sistema di protezione, no? Di assistenza superiore, o c'è stato almeno nel passato, che ha fatto presumere a tutti che poi si poteva vivere con un po' meno forse di reti di assistenza. Oggi penso che chi fa consulenza possa veramente aiutare le famiglie a dare una forma a questi obiettivi finanziari, un complemento previdenziale, perché forse via via che le nostre finanze pubbliche faranno fronte alla situazione previdenziale si renderanno conto che la pensione forse non permetterà a tutti di mantenere... Certo, dottor Viganò, io la rinviterò ad un'altra trasmissione per focalizzarci solo su questo, perché è un altro tema centrale. Basti ricordare cosa è successo con la riforma del TFR, le modalità di direttamento del TFR maturando nei fondi pensione, che è stato percepito da tutti come un obbligo che il governo ha stabilito in un certo frangente qualche anno fa, e invece insomma lo spirito di quella riforma è tutt'altro, e non abbiamo tempo oggi di ritornarci, però anche questo sarà oggetto di un'altra riflessione. Qualche ricetta per un buon rapporto con il consulente finanziario ce la sta dando qualche ascoltatore: farsi spiegare, farsi scrivere a penna, sintetizzato e firmato dal consulente. Questa è una delle ricette. Buongiorno. Buongiorno, sono Davide, sono un promotore di una nota banca di investimento italiana, io le domande di vita le faccio ormai da anni. Davide, ma siamo assolutamente sicuri che ci siano degli ottimi e qualificatissimi professionisti sul mercato. Un altro, più drastico: non ci fidiamo assolutamente dei consulenti finanziari, la vera consulenza non può essere fatta con i prodotti della casa. Questa è un'osservazione per voi, dottor Calderano di BNP Paribas, da parte di Francesco da Napoli, poi magari la faccio rispondere. Altri si lamentano che bancari e promotori parlano troppo in banchese, devono smettere di parlare in banchese e anche di vendere, ovviamente per far guadagnare alla banca e quindi rispondere alle logiche di profitto, realizzare il budget di fine anno, magari portandosi a casa qualche bonus, e lo so, e insomma tanti temi che abbiamo affrontato tante volte. Sentiamo Luca dalla Spezia, che fa consulente finanziario. Luca? Sì, sono un consulente finanziario per una banca nazionale, mi occupo di clientela di fascia alta da un po' di anni, quindi credo di aver maturato comunque una certa conoscenza, di poter tracciare un identikit dell'investitore medio italiano. Beh, io devo dire che dalla mia esperienza siamo ancora molto lontani dall'efficienza per quello che riguarda l'educazione e l'efficienza del servizio da parte delle banche, perché comunque le banche hanno sì scoperto da poco che può essere una buona forma di pubblicità quella di mostrare iniziative, diciamo, prodotti vicini al cliente che tendano... Dice lei, tutto marketing e poca sostanza? Sì, perché comunque poi alla base di tutto c'è sempre, e in questo momento ancora di più, il budget prodotto, le campagne prodotto. Nel momento in cui i tassi sono a questi livelli, la redditività delle banche deriva soprattutto dal ritorno commissionale, quindi sono i prodotti di risparmio gestito che la fanno da padrone. Questo va a inficiare di molto l'efficienza del prodotto e la redditività retrocessa al cliente. Fa anche la sua società, Luca, no? Tanto per capire, anche se è un'obiezione che le muove anche al suo interno. Certo, questa è sicuramente un'obiezione che muovo al mio interno. Devo dire che anche la MiFID poi è stata utilizzata semplicemente come un modo per deprofessionalizzare l'operatore bancario, che si trova semplicemente a non fare più consulenza, ma ad operare tutta una serie di informazioni all'interno delle procedure, le quali addirittura in base al profilo, in base al presunto scenario di mercato che propone la banca, offre direttamente quei 3-4 prodotti che la banca classifica come strategici, certo, e che ovviamente sono anche molto redditizi dal punto di vista commissionale. Dall'altro lato c'è poi una clientela che sicuramente ha molta emotività nei confronti della, quando si parla di finanza, e quindi ha comportamenti che sono assolutamente illogici. Devo dire che purtroppo paradossalmente l'efficienza si avvicina di più e si raggiunge maggiormente nei grandissimi patrimoni, quando invece nei piccoli, medi patrimoni, dove invece farebbe molto la differenza per le famiglie avere una gestione, diciamo, finanziaria preparata ed efficiente, si arriva semplicemente a collocare e a ritenere riuscita una consulenza quando si riesce a collocare quel prodotto. Luca, io la ringrazio, devo salutarla perché ho appena 3 minuti di tempo, devo dare anche la pillola, l'ultima pillola del risparmio gestito di oggi, e quindi devo far concludere anche Calderano e Viganò. Ma la sua testimonianza è molto bella, perché getta ovviamente anche una luce diversa sull'operato del consulente, che non è sempre solo quello spregiudicato che tenta a tutti i costi di vendersi 15 polizze della propria società, della società che rappresenta, ma c'è una atteggiamento molto responsabile da parte di molti di voi e una sorta anche di consapevolezza molto molto chiara rispetto alle logiche che poi governano le aziende che rappresentano. Dottor Calderano, allora, insomma, per chi vi dice che la vostra è un'operazione di marketing e poco altro, che cosa rispondiamo? Ma le dico di no, perché ovviamente quello che noi interessa è l'evoluzione nel tempo del nostro rapporto con i clienti. Noi infatti non parliamo di nessun prodotto, noi parliamo di un processo, parliamo di un'attività di consulenza che, diciamo, non è assolutamente influenzata da sistemi incentivanti, come diceva il collega bancario che parlava prima al telefono. Poi ogni realtà chiaramente è diversa dalle altre, quindi dal nostro punto di vista questa è la nostra filosofia che vorremmo avere nel tempo e che avremo nel tempo. Il budget non è certamente un vincolo per fare cattiva consulenza, tutt'altro. La cosa importante per fare il budget è avere clienti che siano soddisfatti, e per avere clienti soddisfatti bisogna aver fatto un buon lavoro di consulenza all'inizio. Chiedo un telegrafico intervento a Marco da Genova, poi faccio concludere ad Andrea Viganò. Marco, rapidissimo. Sì, io sono veloce, guardi. Lei non si fida dei promotori, vedo. Ma per esempio, della persona che ha sentito prima, che peraltro è un suo conterraneo di La Spezia, non si fiderebbe di una persona che parla così chiaramente? Posso dire buongiorno e complimenti per la vostra trasmissione. È che devo correre, però, Marco. Sì, guardi, dicono solo una cosa. Io sono andato in banca, ci ho detto, abbiamo discusso un po', gli ho parlato di investimenti decorrelati, naturalmente non sanno cosa sono, perché io ho letto parecchi libri e tanti anche, e gli ho detto, ma non si può informare, non può leggere, non può fare. Ma lei non può cambiare banca, Marco? Mi scusi, non può cambiare banca? Deve per forza ostinarsi? No, ma non ho bisogno perché io faccio. Ma quindi stava lì per divertirsi, per metterlo alla prova, per vedere se ne sapeva io più o meno quanto lei? Alla prova, ma non, sono venuto dai miei amici che stanno perdendo un casino, ho detto, guarda che non va bene come fate. Continuano a farlo, perché hanno dei consigli che sono totalmente sbagliati, sono totalmente sbagliati, non si può dire alle persone di fare certe cose. Bisogna anche pensare che i mercati non possono sempre guadagnare, anzi, cadranno parecchio a breve. Ah, bene, insomma, lei ci dà anche questa previsione, Marco, però il tema di a volte persone anche un po' impreparate allo sportello è un altro bel tema che potremmo affrontare, e anche questo ce lo stanno indicando in molti. Al 349-238-6666 c'era addirittura una signora, dice, io sono una casalinga, adesso non ritrovo questo. I bancari ai quali chiedo consigli finanziari ne sanno meno di me, e io sono una casalinga, non dico altro. Dottor Viganò, da dove cominciamo per concludere? Ma direi semplicemente, sottolineiamo con questa bella trasmissione l'importanza dell'educazione finanziaria. Anche noi di BlackRock, che pure non parliamo con gli investitori privati, ma siamo disponibili come prodotto tramite tante collaborazioni commerciali, facciamo tanta educazione finanziaria, facciamo formazione, la facciamo ai nostri distributori per cercare di favorire questo processo, e continueremo ad investire. Sul tema di alcune di queste telefonate, sono veramente interessanti, affascinanti, direi una cosa fondamentale. Per gli operatori, quelli che vogliono avere successo, fare qualità e lavorare in modo etico sull'aspetto fiduciario del loro rapporto con i clienti è sicuramente la ricetta per il successo futuro. Quindi manteniamo alta la concorrenza, lasciamo, quindi diamo visibilità a chi lavora bene, e penso che il risultato finale per tante famiglie anche in Italia sarà senz'altro un miglioramento. Oggi l'ultima parola del risparmio, con la collaborazione del Salone della Gestione del Risparmio di Assogestioni. L'ultima puntata concludiamo non propriamente in bellezza, perché l'ultima che abbiamo scelto è tassazione dei fondi. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. La normativa italiana riguardante i fondi e le SICAV distingue due tipi di trattamento fiscale per i soggetti di diritto italiano e per quelli di diritto estero. Un fattore quest'ultimo che è stato più volte al centro di dibattiti a causa del trattamento più favorevole dei fondi esteri. I fondi italiani pagano un'imposta del 12,5% sui guadagni, ossia sulla differenza tra il valore finale e quello iniziale dell'investimento, che non viene tuttavia calcolata una volta sola a fine esercizio, ma durante tutto il corso dell'anno, in modo che il valore delle quote, pubblicato quotidianamente, sia sempre al netto delle tasse. Quanto viene accantonato durante tutto l'anno per pagare le imposte viene poi versato effettivamente allo Stato in un'unica soluzione o a rate, massimo 11, a partire dal 16 febbraio dell'anno successivo. Nel caso in cui il fondo sia in perdita, nulla è dovuto allo Stato. Anzi, il fondo può portare un risparmio di imposta in detrazione per i periodi successivi, senza limiti, a meno che non scelga, come concede la legge, di compensare le perdite di un fondo con i guadagni di un altro fondo gestito dalla stessa società. In particolare, questo diritto a risparmiare sulle imposte future, le perdite subite, viene ripartito sulle quote del fondo esattamente come i debiti col fisco. Solo che, se nei momenti in cui il fondo guadagna l'effetto fiscale diminuisce il valore delle quote, nei momenti in cui il fondo perde e ottiene il diritto a una detrazione futura, il valore delle quote viene gonfiato. Le parole del risparmio. Chiudo con un messaggio di un ascoltatore che ci racconta: una banca, non la cito ma io la vedo, ha fatto stipulare un piano di accumulo di 500 euro ad una persona di 70 anni. Lo vedete che dobbiamo fare tutti un po' di strada? La persona di 70 anni non doveva firmare una cosa che non conosceva che cosa fosse, perché era, credo, per andare in banca e sottoscrivere un prodotto di risparmio totalmente lucido. Questa banca ha avuto un comportamento, direi che moralmente, eticamente riprovevole. Grazie a Stefano Calderano, ad Andrea Viganò per essere stati con noi. Non riesco a farli salutare perché devo chiudere rapidamente. Salvatanaio torna domani, buona giornata.